rimescolo figure. L'appuntamento con te, vengo a vedere chi sei. Metto un CD di Jarrett e mentre l'acqua scorre stiro gli zigomi un po' e nel vapore mi perdo. Guardo il telefono, penso che ora è, ricalcolando i minuti da qui. Poi scrivo il nome tuo sul vetro umido, poi lo cancello ma non va più via. Le scarpe un po' più grosse, le tasche da scucire, l'appuntamento con te, metto su un altro caffè. Prevedo un temporale, ripasso frasi fatte, penso a una banalità. Mani in tasca fredde come un'ancora, gli occhiali scuri non vedo oltre me. Agli altri appari, mi stampo un bel sorriso, come sei bella così, nella fortuna ci credo un po', ti prendo il braccio e andiamo leggerissimi incontro al mondo che passa da qui. Se questa sera siamo vicinissimi, sicuramente mi piaci così.